soltanto porta il tempo. Va bene. Ah. No, vai del tempo. Registrazione partuta, la terza. Thank you. dopo la metà, dopo il cazzo, ma dopo la